24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Atene vuole un'estensione degli aiuti finanziari, ma rifiuta quella del programma di riforme legato a doppio filo. Abbiamo proposto di rinunciare al nostro stesso programma per un periodo di 6 mesi e tutto quel che abbiamo ricevuto in risposta è stata la vaga promessa di una non meglio specificata flessibilità, ha detto Varoufakis. Schäuble si è detto molto scettico sulla possibilità di un accordo. I greci hanno eletto un governo che si sta comportando in maniera piuttosto irresponsabile, ha detto. Tsipras, davanti alle dichiarazioni della Commissione, ha risposto: non scenderemo a compromessi. Atene sarebbe stata pronta a firmare una proposta accennata dal commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ipotesi poi caduta nel nulla. Ritengo che dobbiamo farcela, che possiamo farcela e che esiste la volontà di farcela. Wolfgang Schäuble tuona: è una decisione nelle mani della Grecia se il paese resterà nell'euro. And please don't tell me. Perhaps. Veronica De Romanis, economista, autrice del saggio Il caso Germania, così la Merkel salverà l'Europa. Buongiorno. Buongiorno. Salverà l'Europa anche con Tsipras? Beh, questo dipende da Tsipras se vuole essere salvato. La Merkel ha fatto delle aperture, ma certo al di fuori delle regole europee non c'è molta possibilità di un accordo. Senta, Tsipras e Schäuble però mi sembrano lontanissimi. È una tattica negoziale o oggi forse la Grecia se ne va dall'euro? Beh, certo, sono posizioni lontane quelle di Schäuble, ma non è l'unico a essere lontano dalle posizioni di Tsipras. Ci sono anche paesi che giustamente l'hanno già fatto, qui penso alla Spagna, all'Irlanda, al Portogallo, ma anche paesi più poveri come la Lituania, che hanno un PIL pro capite molto più basso della Grecia, che si trovano invece a doverla finanziare. Quindi è chiaro che non sono d'accordo con alleggerire le posizioni senza condizioni ai greci. Quindi il rischio che oggi si rompa è molto reale. Beh, il rischio non si può escludere. Senta, adesso è intervenuto anche Obama a minacciare la Grecia. È perché nel programma elettorale Tsipras c'è l'uscita dalla NATO e la chiusura delle basi militari? Ma secondo me la preoccupazione degli Stati Uniti è principalmente economica. Obama teme una nuova crisi europea come il 2011 e, siccome ha avuto un impatto sulla crescita americana, non vuole ritrovarsi nella stessa situazione. Abbiamo sentito che anche gli Stati Uniti, proprio gli ultimi dati di oggi, non sono dati incoraggianti per l'economia americana. Esatto. Senta, per molti la Germania però ha già dato per scontato in qualche modo che la Grecia se ne vada dall'euro. Punirne uno per rieducarne 100 è la linea della Merkel, secondo lei? Beh, è chiaro che se Tsipras riuscisse a rimettere tutto in discussione, questo creerebbe un incentivo anche per gli altri a fare la stessa cosa. Qui penso a Podemos in Spagna. Questa è proprio la linea che i tedeschi non possono accettare. Se c'è una cosa in Germania che piace ancora meno dell'inflazione è l'azzardo morale. Azzardo morale? Sì, dare la possibilità di fare... Politiche diverse, esatto. Si possono chiamare anche, no? Sì, cioè dare l'incentivo a fare cose che poi hanno un impatto negativo anche per gli altri. Senta, dottoressa De Romanis, ma nella visione della Merkel in fondo c'è un'ipotesi di un'Europa a due velocità oramai? No, non direi, la Merkel non ha mai parlato di un'Europa a due velocità. No, però. Chi ne parla è questo piccolo che sta crescendo, partito Alternativa per la Germania. Ma qui è da capire chi è che andrebbe nella velocità di serie B. Di nuovo, per la Germania non è lei che deve chiedere alla Grecia di uscire, ma è la Grecia che deve decidere cosa fare. Vabbè, chi fa la prima mossa? Senta, esatto. Dottoressa De Romanis, comunque cresce negli osservatori l'idea che ci sia una possibile ruota di scorta per la Grecia nella Russia. La Russia che intervenga a sostenere la Grecia al posto dell'Europa. Lei la vede questa possibilità? Ma alla Grecia non conviene, perché finché sta in Europa ha un ruolo, si siede al tavolo negoziale, certo non ottiene tutto quello che vuole ottenere, questo lo vediamo in questi giorni, ma comunque si siede insieme agli altri. Se si mette con la Russia sta nelle mani di Putin, forse nell'immediato può ottenere qualcosa, poi bisogna capire anche cosa, perché la Russia non è in buone acque ultimamente, ma nel lungo periodo probabilmente non conviene. Lei non crede all'Europa dall'Atlantico agli Urali, insomma? No. Senta, dottoressa De Romanis, ma lei difende la Merkel, l'ha fatto con chiarezza nel suo saggio, ma i suoi concittadini cominciano a difenderla un po' meno. Ad Amburgo la Merkel ha perso le elezioni in modo clamoroso, è l'inizio di una crisi personale e politica anche in patria? Beh, è vero che alle elezioni di Amburgo domenica il suo partito è passato dal 22 al 15%, quindi ha perso molti voti, sì. Però questo risultato va rimesso in un contesto. In Germania le elezioni regionali hanno una valenza prettamente locale, cioè si vota per problemi locali. Lì c'era un sindaco socialdemocratico molto forte, molto popolare, che ha vinto. Il problema semmai è l'affermazione di quel partito di cui si parlava prima, questa alternativa per la Germania, che ha avuto un 6% e che per la prima volta entra in un land dell'Ovest, era già entrato in tre land dell'Est. Questo potrebbe irrigidire le posizioni della Merkel nelle negoziazioni con la Grecia, quindi sicuramente questo è un problema. Quindi un elemento in più, sì, per la rottura di oggi, diciamo. Un elemento di rigidità sicuramente. Mm. Lei sostiene che la Merkel salva l'Europa, però gli europei non lo pensano sempre meno questo, sono gli europei che non capiscono la Merkel, no? Ma gli europei non la pensano così perché sono i loro politici a cui ha fatto comodo durante questi anni della crisi dalla colpa agli altri, in particolare alla Germania, quando le cose non sono andate bene. In realtà oggi è la Merkel che va a parlare con Putin, l'abbiamo visto, va a parlare con Obama, è lei in realtà. Vabbè, questo vuol dire che ha buttato la maschera e ha detto comando io, finalmente. No, l'equivoco di un'Europa europea è sopraffatto dall'Europa germanizzata, diciamo. Direi che è un ruolo che le viene riconosciuto anche dagli altri politici che fino ad ora l'hanno criticata. Senta, però intanto la disoccupazione cresce, crescono le diseguaglianze sociali, il PIL quasi non cresce, dov'è il successo dell'Europa germanizzata, l'Europa guidata dalla Merkel? Beh, intanto se parliamo della Germania, è successo sotto gli occhi di tutti. No, parliamo dell'Europa, dottoressa De Romanis. Parliamo dei paesi dove c'è stata una crisi, ci vuole del tempo per recuperare gli eccessi del passato, non si può pensare di risolvere tutto in 5 minuti. Se pensiamo agli Stati Uniti, ci sono voluti oltre 5 anni ed è un'economia dove i mercati sono molto più flessibili. Va anche detto che l'aggiustamento nei paesi che sono entrati in crisi è stato fatto prevalentemente al lato fiscale, quindi attraverso aumento delle tasse, e molto poco attraverso l'implementazione di riforme. Questo è esattamente il caso greco. Senta, adesso però tutti facciamo i conti con la crisi greca, dottoressa De Romanis. E come mai la Merkel non l'ha prevista e non l'ha gestita prima, visto che è così strategica? Intanto non era facile prevederla perché i greci hanno truccato i conti, i greci erano entrati nell'euro. Ci sono osservatori di ogni genere sulla Grecia. Avendo truccato i conti non era così facile, poi forse non è neanche il compito della Merkel, della Germania, prevederla. Nell'area dell'euro la responsabilità delle finanze pubbliche è nazionale. Per quanto riguarda la gestione, anche qui non è facile andare nel Parlamento e chiedere i soldi per salvare. Sì, però diciamo la verità, ha agito tardi con un salvataggio costoso e quando ormai il Paese lo rifiutava. Forse qualche errore lo ha fatto la Merkel, oppure perfetta. No, non va dimenticato che ha agito tardi anche perché gli stessi greci non volevano nessun intervento. Papandreou, che all'epoca era primo ministro, dichiarava, ci sono le dichiarazioni, si trovano, che diceva che avevano i soldi per salvare il paese. Questo perché sapeva che un aiuto avrebbe significato delle condizioni, e quindi significava rompere con una politica di spesa. Sì, ma l'errore della Merkel, c'è stato un errore della Merkel nel suo egemonizzare e germanizzare l'Europa? Sì, un errore c'è stato a Deauville quando insieme a Sarkozy decise di far pagare anche creditori privati i costi della crisi. In linea di principio poteva essere un concetto giusto, ma in mezzo a una crisi quello scatenò una paura dei mercati, quindi un contagio ai paesi più deboli, a Portogallo, alla Spagna, e uno spread alle stelle. Senta, oggi la Merkel è la donna più potente del mondo, intanto 800240024 numero verde, 349-238-6666 sms per chi vorrebbe e volesse intervenire. Dicevo, la Merkel è la donna più potente del mondo ed è diventata però anche forse la più odiata, ma c'è una ragione? Un motivo lo trova lei dall'alto del suo amore? Secondo me perché si considera che non ha mostrato sufficiente solidarietà, essendo poi alla guida del paese più forte nel momento in cui è cominciata la crisi greca. Però qui bisogna capire cos'è la solidarietà dal punto di vista dei tedeschi. La solidarietà è intesa come... Quella per i tedeschi c'è stata nella storia, adesso no, vediamo quella che... dal punto di vista dei tedeschi. Dal punto di vista dei tedeschi la solidarietà è un concetto a doppio senso, cioè assistenza finanziaria in cambio di regole, altrimenti diventa assistenzialismo, che è l'opposto della crescita. E questo tipo di assistenzialismo la Merkel lo conosce molto bene, perché ha vissuto oltre 35 anni della... Dottoressa De Romanis, Alex da Padova ci scrive: la dottoressa è candidata alla guida della Germania? No, veramente no. Non è ancora candidata a quello. No. Senta, ma l'Europa della Merkel sostanzialmente ha un senso solo se è un'Europa germanocentrica, questo ormai mi sembra chiaro, l'abbiamo detto, ha buttato la maschera, va da sola addirittura da Obama, anzi da Putin ci va con la ruota di scorta, si porta Hollande, però da Obama ci va da sola, quindi siamo arrivati. No, io non direi che la Merkel ha una visione così germanocentrica. Certo, nella sua idea d'Europa l'Europa si deve basare su alcuni principi, come diciamo prima, la responsabilità, l'economia sociale di mercato, anche per esempio l'indipendenza della banca centrale. Senta, lei lo sa, no, che c'è chi dice che la Germania ha truccato i trattati per essere egemone in Europa. Ha fatto un dibattito il professor Guarino su questo tema e non è stato mai smentito. Sì, io capisco il punto, ma non sono d'accordo su questa cosa. Senta, questo lo immagino. Inondare di liquidità, come fa la BCE, il sistema bancario, a cosa serve se i soldi poi non riescono ad arrivare alle imprese? Beh, ora con il quantitative easing è un po' diverso rispetto alle operazioni passate. Forse è peggio. No, forse è meglio, perché in questo caso la BCE compra i titoli dalle banche. A quel punto, con questa liquidità, le banche hanno due scelte. Ora depositano presso la BCE, però a un tasso negativo dello 0,20%, quindi ci perdono e non conviene. Oppure lo investono, comprano titoli più rischiosi o danno prestito sia alle famiglie che alle imprese, quindi questo dovrebbe essere l'effetto positivo. È chiaro che da solo, senza le riforme, questo intervento avrebbe un impatto molto limitato. Senta, ma cosa è cambiata? In che cosa si è cambiata la Merkel dal 2005 a oggi? Ora la Merkel ha il suo terzo mandato e sicuramente ha affermato la sua leadership anche grazie alla sua capacità di mediare, l'abbiamo detto. Mediare poco. L'abbiamo vista a Minsk, anche se si è trovato un'intesa abbastanza fragile. Mi sembra che sia fragilissima. Sì. Però ha un modo di svolgere la sua leadership rassicurante, si muove con cautela proprio per l'opposto di quello che diceva lei prima, cioè lei sta attenta a non dare l'impressione di essere alla guida di una potenza. Però demone. Lo è. Qui dicono, ci scrivono, i tedeschi hanno scatenato due guerre mondiali, questa è la terza guerra mondiale economica? No. No? Lo pensano in molti però. Qual è il difetto principale secondo lei della Merkel, dottoressa? Ma io direi la lentezza. La Merkel prima di entrare in politica ci è entrata abbastanza tardi, ha lavorato in un laboratorio, quindi lei usa la politica un po' come se fosse un laboratorio di ricerca, dove i tempi sono lunghi, dove si guardano tutti i particolari, tutte le ipotesi. Chiaro, questa lentezza non funziona sempre in politica. All'inizio, quando scoppiò la crisi della Lehman Brothers, Nicolas Sarkozy diceva la Francia agisce, la Germania riflette. Però la Merkel piace, spesso dice: se io posso prendermi del tempo non vedo perché non lo debba fare. Senta, ma la Merkel e la Thatcher si assomigliano? Ma si assomigliano nel senso che sono tenaci, sono ambiziose, però direi che finisce qui. Thatcher è una lady di ferro che va allo scontro, la Merkel cerca sempre di mediare, di trovare un compromesso. Senta, un'ultima cosa, in tema di spending review e di pareggio di bilancio, in Italia abbiamo un precedente illustre con Quintino Sella, che inasprì le tasse sul macinato e fu un disastro totale sul piano sociale. Ecco, la storia non insegna nulla da questo punto di vista rispetto alle situazioni di oggi di pareggi di bilancio e spending review. Io direi che chi ha fatto la spending review in modo sistematico oggi si trova con delle finanze pubbliche in ordine e cresce. Chi invece non la fa in modo sistematico, ma la fa solo in una situazione di emergenza, è costretto a fare delle manovre recessive con effetti disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti. Se c'è Giacomo da Bruxelles che le fa una domanda, perché non chiedete alla preparatissima De Romanis come mai i tedeschi non hanno ancora guidato un'unione fiscale europea? Ma veramente questa è una delle cose che propone sempre la Merkel, l'unione fiscale. Infatti lei non esclude i famosi euro bonds di cui si parla, ma solo dopo l'unione fiscale. C'è Mario... scusi, no, finisca. No, quello che si propone spesso nel dibattito pubblico è il contrario: prima la mutualizzazione dei rischi e poi l'unione fiscale. C'è Mario Secchi che vuole fare una domanda per chiudere. Buongiorno Veronica. Buongiorno. Allora, ne ha parlato di azzardo morale, ma non è azzardo morale vendere sommergibili da parte della Germania alla Grecia per 4 miliardi? Beh, la Grecia non ha mai sparato un siluro. Questa è la decisione dei greci che l'hanno comprato. Insomma, piccola buccia di banana. Grazie dottoressa De Romanis, grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. L'Europa non deve solo gestire la crisi economica e le divisioni che ne possono scaturire, abbiamo sentito, deve anche fronteggiare problemi di sicurezza sempre più preoccupanti esplosi in Libia. ISIS è l'acronimo per Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. ISIS è un'organizzazione terroristica che si è autoproclamata Stato nel gennaio del 2014. Lo Stato Islamico ha radici profonde. Il movimento jihadista prende vigore nel 2010 sotto la direzione dell'attuale leader Abu Bakr al-Baghdadi. Il cambio di passo avviene durante la guerra civile siriana, che permette di reclutare nuovi combattenti, soprattutto dall'Europa. L'obiettivo dello Stato Islamico è la completa invasione dell'Iraq. L'esercito iracheno sembra in rotta di fronte ai miliziani islamici dell'ISIS, che avanzano a una velocità impressionante. Con la decapitazione del giornalista statunitense James Foley, lo Stato Islamico approda sulla scena internazionale. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a Steven Sotrov, tutto arancione, in ginocchio nel deserto, decapitato. Ken Gigoto è stato decapitato. Decapitato David Haynes, il 44enne Kiala Müller, volontaria americana nelle mani dell'ISIS, sarebbe morta. Stavolta è un prigioniero curdo a Mosul. Prima sono stati quattro uomini accusati di un drappello di militari siriani fino all'ultimo, poco prima di venire decapitati, privati di ogni dignità. Appare l'ostaggio rinchiuso in una gabbia di metallo, poi una grossa fiammata che divampa. I militanti dello Stato Islamico hanno diffuso un video che mostrerebbe la decapitazione di 21 egiziani cristiani. Durante il filmato, i militanti affermano di essere a sud di Roma, in Libia. È arrivato nel porto di Augusta il catamarano con a bordo gli italiani evacuati dalla Libia. La chiusura dell'ambasciata italiana è stata necessaria, dice il ministro Gentiloni. Monsignor Giovanni Martinelli, vescovo di Tripoli. Ecco, lei ha deciso di non abbandonare Tripoli anche dopo la chiusura dell'ambasciata italiana. Perché? Io non sono impiegato dell'ambasciata. Naturalmente. Io sono pastore della comunità cristiana. Anche se i cristiani sono ridotti al minimo, comunque sono impegnato ad assisterli. Finché ce n'è uno, io devo restare. E quanti sono i cristiani con lei lì a Tripoli oggi? Attualmente sono veramente ridotti al minimo. Saranno forse intorno a 2000 persone, ma forse anche qualcosa in più. E hanno paura? No, loro lavorano negli ospedali, non è che hanno paura in particolare. Sono impegnati nel lavoro, nell'assistenza ai malati, quindi certamente le notizie che possono ricevere non fa piacere. Comunque, tutto sommato, offrono un servizio importante. Ma quelli, Monsignor Martinelli, gli italiani che sono andati via erano molto dispiaciuti di dover partire? Sì, buona parte sì, erano un po' quelli dell'ambasciata, tutto sommato. Ah. Ma quelli dell'ambasciata erano impegnati, meno dispiaciuti, però sono altri che lavoravano nelle compagnie e quindi da anni magari legati per affetto un po' alle persone, al servizio che offrivano. Ecco, ma lei resterà lì sempre quindi, Monsignor Martinelli? Ma io fino a quando non mi cacciano via penso di restare, almeno offrire un servizio di assistenza ai nostri cristiani. Ecco, Tripoli è una città molto divisa in questo momento? Più che Tripoli, ecco, un po' la comunità araba musulmana è un po' divisa, ecco, questo sì. Però stanno cercando di riconciliarsi e tra loro trovano sempre il modo di stare insieme, ecco. Senta, ma l'ISIS avanza veramente lì oppure c'è molta enfatizzazione mediatica anche? Io esattamente non so darle informazioni precise in proposito, però sicuramente c'è una certa influenza e anche, come dire, da parte loro impegno a conquistarsi il mercato, diciamo, l'opinione pubblica. Questo sì. Lo fanno anche in modalità molto violente. Capita spesso che lo facciano con violenza, però non è una regola generale. Di solito sanno stare anche molto delicati, molto attenti. Ma lei vede molto... lei vede bandiere nere dell'ISIS in giro per Tripoli? Si vedono. Si vedono anche se non una forma proprio continua, però di qua e di là negli uffici o nelle strade si trovano di queste bandiere nere, certo. Senta, ma l'atteggiamento della Libia, dei libici nei confronti dell'Italia è cambiato dopo la caduta di Gheddafi? Io non so darle un preciso giudizio. Secondo la sua esperienza di pastore? A me sembra che la Libia ha sempre un fascino verso l'Italia, o l'Italia suscita un fascino verso la Libia. Quindi tutto sommato non è che sia cambiato granché o che abbia voglia di essere diversa. Le occasioni, le urgenze, le amicizie restano, non si possono rovinare e buttare in aria. Ci sono molti libici che sono molto legati ancora agli italiani e quindi tutto sommato quello che hanno seminato resta. Senta, Monsignor Martinelli, e comunque le fazioni che sono in combattimento fra di loro all'interno del mondo islamico sono a livello di una guerra civile sostanzialmente? Io credo che tutto sommato sono delle famiglie che hanno dei rancori o non riescono a conciliarsi per motivi religiosi e per motivi di tribù, non riescono a conciliarsi con l'altra parte, perché realmente la fazione esiste, la divisione esiste, però non è facile poterli riconciliare tra loro. Se sono di un'altra tribù, di un'altra kabila, dicono loro kabila, sì, ecco, esatto, fanno fatica a riconciliarsi tra loro, però i libici, sai, per loro tutto è possibile. Ma quindi è riesploso il potere delle tribù? Che è chiaro, ah, quello è il punto di fondo, il punto nevralgico. Allora le kabile, ecco, hanno il loro sopravvento e con le kabile le famiglie e quindi i capi che fanno il riferimento a queste famiglie. Monsignor Martinelli, lei vede una possibilità di ricomporre la situazione senza un intervento militare in Libia? Assolutamente, ma certo, non si deve parlare di intervento militare, che sarebbe peggio. L'intervento, unico intervento possibile, è quella della riconciliazione umana, quella dell'amicizia, quella del, come dire, incontro e quindi trovare il modo di dare. Ma questa è una bella aspirazione, ma di fronte alla violenza anche molto molto estrema che viene praticata dall'ISIS, l'incontro mi sembra una beata, una pia aspirazione. Io penso che la diplomazia deve avere il sopravvento e quindi educarsi a questo clima di incontro, di diplomazia, perché altre forme non ci sarà mai e poi mai la pacificazione. Senta, l'unica pacificazione viene realmente dalla diplomazia. Ecco, Monsignor Martinelli, lei è a Tripoli da quanti anni? È ormai dal 71. Ecco, quindi ha visto tutta la parabola di Gheddafi. Cosa ha pensato lei di Gheddafi? Cosa pensa di Gheddafi? Era una persona molto intelligente, quindi la prima cosa che ha fatto è che ha cercato di mettere a tacere le tribù, oppure le ha in qualche modo dominate. E ha dominate come? Dando loro il tributo, dando il comando in alcuni settori. Lui è riuscito a metterli a silenzio, se vogliamo, proprio perché li conosceva e sapeva come metterli. Anche con molta violenza, no, credo? Qualche volta con violenza, quando non riusciva, quando si accorgeva che era difficile. Era violento anche, sapeva essere violento, ma in genere giocava di diplomazia e di furbizia. Dava un comando, ecco, in quella zona lì siete voi che comandate. Arrivava sempre in qualche occasione in cui si potevano riconciliare tra loro, discutere e quindi trovare il modo per e trovare la soluzione. Ma come mai allora contro di lui si è scatenato tutta quella violenza che ha portato alla sua morte? Io penso che... Ma veniva dall'interno o dall'esterno? La violenza veniva dall'esterno soprattutto, e poi chiaramente anche dall'interno, perché c'erano sempre delle fazioni che non erano contente di lui. Ma questo non si può nascondere. Ma certo. chi dice che i francesi hanno prevalentemente sono stati loro a volere la testa di Gheddafi, in qualche modo anche contro gli italiani, è qualcosa di vero o no? Sì, è vero. È vero. È vero, i francesi hanno dominato la fine di Gheddafi. L'hanno dominata e in qualche modo hanno fatto in modo di farlo sparire senza giustifica, ecco. E sono stati i forti in questa occasione, ma non sono stati gli intelligenti. Ecco, la diplomazia non ha per niente dominato in queste condizioni. Senta, il rapporto tra cristiani e musulmani si è modificato con l'espandersi dell'ISIS? Dove il cristianesimo è riuscito a dominare con il dialogo, con il servizio, soprattutto con il servizio delle religiose negli ospedali. Le religiose sono diventate una favola. I libici non sapevano concepire le suore se non in questo servizio di dialogo, di amicizia, che loro sapevano offrire con delicatezza. E vengono rispettate dall'ISIS? Oh, ma certo. E come? Rispettate e richieste in continuazione. Quindi la forza della testimonianza della religiosa è una cosa che domina ancora. Ecco, ma quel massacro di cristiani egiziani che sono stati sgozzati purtroppo non è un esempio di quello che sta dicendo lei, però. Io dico io che quello degli egiziani, quella è ignoranza, perché loro hanno fatto e dominato l'idea che i cristiani ortodossi devono essere musulmani. Quindi il fatto di essere diventati musulmani, quindi un tradimento alla religione musulmana. Quindi hanno fatto in modo di scoraggiare queste conversioni e queste presenze di cristiani ortodossi, cristiani arabi. Quindi a loro fa paura vedere un cristiano arabo, perché lo vedono come un traditore. Accettano un cristiano occidentale ma non uno arabo. È bravo, così. È proprio così. Mix 24. Mi manchi. Non vuoi sapere quanto. Sarà che non è. Io ti invento, ti immagino e ti canto, è così, mi pare che ci sei. Pietrangelo, canzoni dall'aeroporto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Oggi ho preso nell'ordine la metropolitana, il treno e adesso un aereo, e in ognuno di questi luoghi ho trovato il permanere del transito, una fissità dello sguardo, quello stare in luogo che è l'aspettare in una dimensione di pura estasi. Non mi stancherò di aspettare, dice la canzone di Fabio Concato. E oggi ho seguito il transito di un soldato comandato dalla propria regina di attendere. Un soldato con lo zaino affardellato odoroso di fiori, comandato di un viaggio che fosse soltanto attesa, una combattuta attesa, il cui premio è un sì, una felicità completa dopo tutti i gradi di obbedienza, il più difficile dei quali è la pazienza dell'attesa che non stanca. Hai capito quanti pensieri per prendere un aereo? Meravigliosi. Faccio il biglietto e salgo. Vai, andiamo. Tu, vabbè, ma noi è a poesia meno. Meno so. Poesia, vai con le tue bolle, Mario. Va bene. Ah, questa è. Senti. Chitarra di Mark Knopfler, questo è un pezzo fantastico, Money for Nothing, Dire Straits per intenderci. E Giovanni, Money per qualcosa in realtà, non per niente, calvelo della BCE, sai che verranno pubblicate le minute della Banca Centrale Europea sulle decisioni prese, storica decisione del quantitative easing, come in America, sì, ogni tanto, insomma, a differenza di Fed, Banca di del Giappone, esatto, stavolta le pubblicano, solitamente fanno conferenze stampa di per questo era stata accusata anche di opacità la Banca Centrale. Noi sappiamo che Draghi è favorevole a farlo sempre. Speriamo che ci sia una riforma e che lo facciano il più presto possibile. E intanto un salamino volante. Altro che partito della nazione. Squillino le trombe. Altro che partito della nazione. Era l'editore della nazione il vero motivo del patto del Nazareno, rivelatosi poi un pacco di libri, va da sé. La prossima fusione del gruppo Mondadori con Rizzoli porterà dunque alla nascita del colosso editoriale al quale sarà capo Marina Berlusconi. Qui si fa la libreria o si muore, questo è il motto con cui, incontrandosi a Teano, la stessa Berlusconi a cavallo e Paolo Mieli, sentite il grido? Paolo Mieli in groppa un destriero, hanno stabilito le prossime mosse. Il premier Matteo Renzi, avete sentito? Eccolo, è lui. Gasatissimo! Ieri a Torino, in visita agli stabilimenti Fiat, ho potuto battezzare il SUV della nazione e hanno messo insieme il pacco a quattro ruote con gli americani. E siccome 2 più 2 fa 4, 1 più 1 in libreria, avvia la più difficile delle rottamazioni, che è... Parole, parole, parole! La più difficile delle rottamazioni è quella delle parole, quella dell'egemonia culturale, quindi un solo Severgnini, un solo Augias, un solo Murakami, che tanto piace a Renzi. E però resta una domanda, anzi due: che ruolo avrà Paolo Mieli? Che ruolo poi Gian Arturo Ferrari, rientrato da poco a Segrate? Ma sempre loro, cioè, sempre loro, quelli. Certo, certo. Saranno sempre loro. E poi sai come gli italiani, come sono gli italiani? Popolo di ciucci analfabeti di ritorno, leggeranno e finalmente cominceranno a leggere, primi tra tutti nelle classifiche, riconoscete? Quando sento il tuo profumo, insomma, in libreria le uniche cose che si vanno a cercare sono quelle parenti della prova del cuoco, e quindi i veri best seller sono la Clerici, la Parodi, e poi siccome, sentite, adesso mi faccio un bel doppio, ma io me lo faccio doppio, è ovvio, no? Doppio sapore per minestre pietanze. Tanto semplice provare la minestra pietanza. Siccome il brodo è doppio, il dado è il cracco, e la doppia brodaglia del conformismo italiota trionferà in cucina. Altro che buona lettura, buon ruttino a tutti. Buon viaggio Pietrangelo, oramai i suoi editoriali della nostra radiovisione sono diventati un cult. Una bolla ancora, Mario. Vai. Sono guarito, eh? Per fortuna. Sister Sledge, We Are Family. Dai, falla sentire ancora un po'. Andiamo. Grande pezzo dance. Allora, Jeb, vabbè, ragazzi, il terzo dei Bush che si candida alla presidenza degli Stati Uniti. Qualcuno dirà, oh, il nepotismo. Beh, attenzione che intanto c'è Hillary, che insomma... Vabbè, nepotismo, la mi sembra una parola. Allora, in realtà la politica americana va è per famiglie, grande famiglia, per clan, per dinastie. Non è nepotismo, perché è una democrazia diversa dalla nostra, è fatta di primarie, di caucus, di elezioni di midterm, di elezioni presidenziali, della raccolta di enormi masse di denaro privato, della concorrenza in TV fino all'ultimo minuto. Insomma, Jeb ha cominciato, quindi dopo George Senior e George Junior, ora c'è lui. Il suo primo discorso è stato che cosa? Un attacco a Obama. Su? Sulla politica estera. Ma che okay. Novità! Mix 24. Sara, oggi abbiamo voglia anche di storie positive. Dentro al cuore che la politica sia ancora un'occasione. Veronica Di Quattro, bolognese, 31 anni. Segni particolari, responsabile del mercato italiano di Spotify. Ricoprire un ruolo di vertice per una società che ha 60 milioni di utenti in tutto il mondo. È una bella soddisfazione, Veronica? Assolutamente sì. Diciamo è una sfida e un'emozione continua giorno per giorno. Ci spieghi brevemente, per chi ancora non lo sa, cos'è Spotify? Spotify è un servizio di musica in streaming che ti permette di ascoltare tutta la musica che vuoi, quindi di avere accesso ad un catalogo di più di 30 milioni di canzoni in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo. Veronica, tu ce l'hai fatta, ma perché in Italia i trentenni faticano ad essere considerati per i posti di vertice come il tuo? Sicuramente per me è fatto dell'esperienza all'estero e quello anche di fare delle scelte un po' tra virgolette diverse, un po' azzardate rispetto a quelle che facevano magari gli altri miei coetanei, ha aiutato molto ed è servito. Quello che posso dire è di cercare di lanciarsi e di non avere paura di provare cose nuove. Tu quando vai alle riunioni trovi delle persone della tua età oppure diciamo si sale anagraficamente sì. Parlando? Sì, io ho avuto la fortuna sicuramente di lavorare per delle aziende che a livello di cultura aziendale, no? Quindi come sia Google o Spotify, sono assolutamente aperte al fatto di riconoscere le nuove forze, no? I nuovi giovani e di non avere paura di dargli delle responsabilità, e questo è un aspetto fondamentale. Ti sei laureato in economia e poi appunto lo anticipavi, sei andata in Perù dove hai lavorato nel settore alberghiero, ma cosa ti ha spinto sì. Fino a lì? Guarda, lì ad esempio è stato proprio uno delle mie scelte dettate essenzialmente dal voler fare qualcosa di diverso, no? Venendo dalla Bocconi volevo un po' mettermi alla prova. Prima di iniziare a lavorare in Perù ho fatto un viaggio dopo la laurea, dove sono andata per il Sud America, sono partita da Buenos Aires e ho fatto tutto il percorso fino alla Terra del Fuego, il Cile, la Bolivia, per arrivare poi in Perù. E mentre viaggiavo mi è venuto in mente il fatto di dire, qua secondo me qua c'è della potenzialità per poter fare qualcosa di più. Hai detto resto. Fatto, esatto. Poi hai continuato a viaggiare, infatti sei andata a Dublino, sì. Dove hai lavorato per Google. Ma in un'azienda sì. Così grande, come si fa a non essere considerati solo un numero? Allora, paradossalmente nelle realtà come appunto come Google le persone sono ovviamente tantissime e tante volte tu vedi solo una piccola porzione di quello che è il tuo ruolo, del valore che stai creando, però proprio questi tipi di aziende nello stesso tempo ti lasciano molta libertà per emergere, per seguire quelli che possono essere i tuoi progetti specifici se hai delle idee e ti danno proprio la possibilità di testarle, di metterle in pratica, di presentarle e quindi di poter sviluppare anche delle competenze, di metterti alla prova al di fuori di quello che è il tuo ruolo. Veronica, sulla base di tutta questa esperienza che hai raccolto, che cosa è fondamentale sapere oggi per scalare il mercato del lavoro come hai fatto tu? Io mi sento di dire di non avere paura di sbagliare, cioè la chiave è non perdere mai la voglia di lanciarsi, di provare, pur sapendo che anche eventualmente sbagliando stai comunque imparando qualcosa. Qual è stato, se c'è stato, un colpo di fortuna? Il colpo di fortuna forse è stato il fatto per me di aver scelto come viaggio dopo la laurea in Sud America, perché poi dopo da lì è stato un susseguirsi di eventi determinati da queste mie scelte. Come vedi i tuoi amici e coetanei italiani in questo momento? Li vedo assolutamente con voglia di fare e con anche la possibilità di dimostrare che stanno creando valore, stanno cercando di portare avanti il mercato. Ecco Veronica, io ti sento veramente con una voce entusiasta, piena di energia, ma davvero i tuoi coetanei sono entusiasti come te? Lo spero, io cerco sempre di trasmettere e di ispirare un po' di entusiasmo, io lo vedo, sicuramente ci dobbiamo dare forza tutti quanti, no? Quindi dal lato mio quello che faccio è cercare di spingere sempre di più le diverse persone con cui parlo. Veronica, invece quanti posti di lavoro creerà Spotify nel tempo? Dacci una previsione. Speriamo molti, nel senso che ad oggi siamo meno di 10, sicuramente il mercato sta crescendo tantissimo e speriamo di continuare a crescere, di andare in questa direzione, di poter creare altri posti di lavoro. Una bella storia di successo, Mario, che, sì, dà, che dà speranza. Ancora una bolla? Vai. Drive the Cars, classico ormai. E restiamo sempre in ambito high tech, visto che parlavamo di Spotify, per dire che se, insomma, Giovanni, ci siamo, stanno per farla, sai cosa, no? Che cosa? L'automobile di Apple. Sì, allora hanno cominciato, tanto sono in un luogo segreto, questo è certo, la stanno progettando là, hanno assunto degli ingegneri che lavorano per A123 Systems, diciamo in italiano anche così è meglio, sì, che è un'azienda che produce batterie elettriche, sì. 60 ingegneri da Tesla pare che abbiano portato via. Ora, se non stanno, e se non stanno facendo un'auto, stanno facendo una cosa che va su quattro ruote, così secondo me. E come abbiamo sempre detto qui a Mix24, ora lo vogliamo dire definitivamente, quello dell'automobile è il settore dove di più in questo momento la old economy, diciamo, sì, si sta fondendo con il digitale. Esattamente. Saranno dopo la stessa tanti, cosa. Dopo tanti anni di fermo macchina. Dopo tanti anni di fermo macchina. Bene. Esatto. Oggi dopo il giornale radio, grazie Mario, oggi dopo il giornale radio raccontiamo Marina Milone con l'aiuto, un commento di Gianni Minacci, racconta la storia di un grande del pugilato italiano, di Tiberio Mitri, una vita fatta di eccessi, di cadute, una vita da film, insomma. Ma prima del giornale radio, Giudizi Universali di Samuele Bersani. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace.